Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. A vedere un camion che andava velocissimo, l'ho visto salire sulla promenade, lì per lì ho pensato ha sbandato, invece no, ho visto che andava quasi 80 all'ora, andava velocissimo, e ha iniziato a prendere tutte le persone che c'erano sulla promenade e poi soprattutto i mitra, ho sentito che hanno iniziato a sparare ovunque con i mitra. Caro Oscar, ci risiamo con i suoni, i rumori, le urla, le grida, le urla, le grida. Qui purtroppo dobbiamo abituarci perché è innegabile. Sì. Accade sempre più spesso. Accade sempre più spesso, è un conflitto di cui non si è a capo e comunque bisogna sapere, bisogna conviverci, bisogna sapere tenere i nervi saldi, bisogna ricordare che ne possono uccidere a migliaia di noi, ma la libertà, se stiamo uniti, non ce la levano. Bisogna ricordarci che loro se lo sognano ciò che ieri hanno attaccato, cioè un popolo che chiede la libertà il 14 luglio se lo sognano e se lo sogneranno, però bisogna sapere che continuerà. Ovviamente, cari ascoltatori, Radio 24, come sapete, ha la programmazione tutta dedicata a quello che è successo ieri a Nizza. Un camion guidato da un franco tunisino, franco algerino, non si è chiarito. Secondo alcuni testimoni, dopo le urla anche all'Akbar, però anche qui è da verificare, ma la modalità sembra quella di un attacco del terrorismo di matrice islamica, ha falciato. Col chiaro obiettivo di usare il mezzo che si trova per fare il massimo delle vittime, nel giorno evocativo. Come chiedeva alcuni califfi dell'ISIS. Investiteli con l'auto. Esatto. 84 morti, gli ospedali dicono a Nizza ci sono anche 30 bambini coinvolti. E molte persone ferite. Oscar, ovviamente faremo tante considerazioni, i microfoni sono aperti, 800 24 00 24. Vogliamo partire dalle testimonianze, perché abbiamo proprio sentito poco fa, grazie a Lorenzo Nespoli che l'ha raggiunto, un italiano che vive a Nizza, che era lì, si chiama Valeriano Palleschi, giusto Valeriano? Buongiorno. Sì, buongiorno. Che è a Nizza, lavora a corsi di musica ed era con molti francesi, molte persone di tutto il mondo, immagino, a festeggiare il 14 luglio ieri lì. Sì, ero con la mia compagna e con degli amici. Stavamo in spiaggia a vedere i fuochi, quando poi alle 22:30 siamo rientrati sulla promenade. Stavamo però nella parte finale della promenade, quella sotto il castello. Ad un certo punto ho visto dei poliziotti andare verso la parte opposta alla nostra e correndo, e dopodiché ho udito subito degli spari e all'improvviso delle persone correre verso di noi. Era una massa di gente enorme, e tutti che ci dicevano di scappare, scappare, e quando chiedevamo il perché, nessuno sapeva dirci appunto una motivazione, nessuno sapeva darci una motivazione concreta. Ma veramente scene di panico, gente che urlava, gente che piangeva, cioè allucinante, sembrava di stare in un film, sembrava di vivere una scena surreale. E dopodiché a piedi siamo riusciti a tornare a casa. Noi abitiamo sulla California, passando per le strade interne. ed è stato in televisione che abbiamo subito capito quello che era successo, perché le prime testimonianze erano un po' confuse. Chi diceva che c'era una macchina, chi diceva che c'erano stati degli spari, chi diceva anche che... più persone, perché si parlava anche di più persone all'inizio. Si parlava di sequestri in atto nei locali, dalle parti di Masnà. Sì, appunto si sapeva che ci fosse stato c'era un mezzo che aveva investito in piena promenade diciamo tanti passanti, però chi diceva che fosse una macchina, chi diceva che fosse un furgone, chi diceva appunto che ci fossero stati gli spari, erano un po' confuse le prime diciamo informazioni. E quindi ecco, c'è stata tanta paura, tanto disagio, cioè tanto veramente sconvolgimento e panico da parte di tutti. Beh, chiaro. Poi stavamo con una ragazza che aveva una bimba con il passeggino, quindi potete immaginare come era preoccupata. Una signora che abbiamo incrociato seduta su una panchina, era totalmente sconvolta e non riusciva nemmeno a parlare, balbettava, aspettava un figlio o un parente che venisse a prenderla, e ci ha detto che appunto aveva visto questo camion che colpiva le persone, che aveva falciato tutti. No, ma intanto Valeriano, davvero davvero grazie. Insomma, è chiaro, sono le testimonianze di persone, insomma, che vedono la propria vita, caro Oscar, sconvolta nel momento in cui stanno andando, tra l'altro, a festeggiare i fuochi d'artificio, la presa della Bastiglia il 14 luglio, festa nazionale. Ora c'è un'agenzia che dice il guidatore del camion era solo a bordo del veicolo e se ha avuto complici è stato a monte, cioè in una fase organizzativa, quindi non ci sarebbero, diciamo, altre situazioni in questo momento. In questo camion al cui interno poi ci sarebbero altre granate, armi, eccetera, eccetera, quindi ecco, forse nel mettere insieme tutta questa cosa, però certo, se pensi un autore rispetto al bilancio. Esatto. È chiaro, Oscar, che guarda, io te lo dico già, i messaggi, la gente e gli ascoltatori reagiscono in maniera anche molto chiara e netta, dicendo dobbiamo reagire, dobbiamo dirlo, ci stanno colpendo sempre di più, è una guerra di civiltà, è una guerra... Totalmente il rischio delle reazioni emotive lo conosciamo. La cosa più difficile è tenere una tensione al di là delle 24 ore dopo questi eventi, cioè ricordarci qual è la matrice, ricordarci che c'è un conflitto aperto e contemporaneamente sapere che alla fine, se vogliamo difendere i nostri valori di libertà, tolleranza, stato di diritto, dobbiamo evitare esattamente le reazioni emotive. Cioè tanto non è che li impicchiamo per strada e risolviamo niente. Scusate se sono brutale. No, lo sei brutale, ma è una giusta risposta, perché qualcuno lo chiede anche, dice no, giustiziamoli, ma giustiziamo chi? Cioè, c'è un problema, appunto. C'è un problema, e io sono il primo a dire è sbagliato far finta che la religione non c'entri nulla, e far finta che non abbiamo un problema con alcune persone, speriamo poche, che interpretano in maniera distorta una precisa religione. Insomma, ripetere che di solito è colpa nostra che non abbiamo redditi abbastanza uguali, che non c'è l'islamismo. Ecco. Chi ripete questo forse è il caso che la smetta. Esatto. Però no a reazioni isteriche, ecco. Questo naturalmente bisogna anche capire però l'opinione pubblica, che questo si è capito già da stanotte dal primo flusso sui social, di chi a un certo punto si pone il problema, ma insomma le istituzioni, possibile che siano nude, che lasciano la gente, il popolo esposto, perché ovvio, pensa alla Francia, tutto quello che è successo, la Charlie Hebdo, il Bataclan, eccetera, eccetera, e tutte le volte colpiscono impunemente con bilanci di questo tipo. Però interroghiamoci tutti, cari ascoltatori, sì, certo, le istituzioni, magari a volte i servizi, l'intelligence, le forze di polizia, lo sappiamo. Però, come vedete, le modalità sono tali che nella vita organizzata di grandi centri pubblici, dei trasporti, di una società complessa, se uno si mette alla testa di un tir e spiana folle fuori da uno stadio, ecco che ottiene un bilancio di questo tipo. È un po' difficile immaginare di poter entrare nelle comunicazioni di chiunque per sapere che quello domani a quell'ora metterà la chiavetta nel tir. Certo. Allora, con noi, tra l'altro, Oscar, proprio perché la modalità è nuova, è drammaticamente nuova. Utilizzare un camion a 80 all'ora sulla folla, l'abbiamo visto in realtà in Israele, purtroppo è capitato, macchine, ma noi non l'abbiamo mai visto, ma è toccato con mano da vicino. Abbiamo chiamato il professor Marco Lombardi, che è responsabile di un centro di ricerca sul terrorismo alla Cattolica, insegna gestione delle crisi nelle città. Professor Lombardi, buongiorno. Buongiorno, eccomi a voi. Ecco, perché la modalità è impressionante. Ripeto, non è nuova in assoluto nel mondo, ma è nuova per noi. Sì, è drammaticamente impressionante, perché immaginarsi un tir che è come uno schiacciasassi calpesta triturando persone, veramente un'impressione incredibile. Ma ricordiamoci, 21 dicembre 22 dicembre del 2014 in Francia due automobili fanno la stessa cosa, una dozzina di feriti per parte, Digione e Nantes. Poi torniamo ancora un passo indietro, addirittura nel 2010 questa drammatica banalità era stata descritta perfettamente, così come accaduta su Inspire, uno dei magazine del qaedismo. Era il 2010. In tutti questi mesi, aprile, maggio, tutta la pubblicistica di Daesh non ha fatto che insistere sulla necessità di questi attacchi. Siamo di fronte a un 2016 che ci prevedevamo essere pessimo, e l'abbiamo iniziato in questo modo. Tutte le analisi danno una recrudescenza degli attacchi del Daesh nel 2016, così è. E come ho sentito, come è stato detto, nervi saldi, c'è una guerra in corso, le guerre devono essere vinte e devono essere combattute con la testa, quindi nervi saldi anche rispetto a quello che accadrà inevitabilmente, perché anche questo è stato detto, non possiamo mettere i cunei di cemento armato davanti a ogni promenade o ogni piazza del Duomo. Infatti la domanda è proprio questa, come si può fermare un lupo solitario, così si chiama, impazzito, che se gli metti il blocco di cemento trova un altro strumento, che se gli metti una cosa per bloccare quell'altro obiettivo ne trova un terzo, no? Come si fa? È veramente drammatico. Io ho sempre sostenuto, fino a quando ci saranno delle persone che sono disposte a morire per ammazzarti, sarà pressoché impossibile fermarle prima. E è un'evidenza, ma purtroppo è così. E avremo di fronte a noi una generazione che dovrà combattere questa forma di guerra ibrida, indipendentemente dal fatto che a Daesh faremo le scarpe in Iraq. Ecco, non cadiamo in questa trappola ennesima della politica che dice sono i colpi di coda di un Daesh che sta morendo sul campo. Non gliene può fregar de meno. Sono almeno 46 gruppi formalmente alleati a Daesh distribuiti in quasi 30 paesi diversi, che hanno una loro autonomia di gestione, una loro capacità operativa estremamente limitata ma estremamente puntuale sul posto, che continueranno ad andare avanti. Il califfato, anche se perde terreno, è un'idea purtroppo che ha dato identità e spazio a tanti. Io caro Oscar, non so cosa tu ne pensi, come dice il professor Lombardi, temo, perché molti dicono, quando io ho detto abbiamo un problema con alcuni interpreti in maniera distorta di una religione, cosa fare? E purtroppo dobbiamo forse abituarci a capire che non c'è sempre una risposta su tutto. Se uno vuole uccidere in nome di chissà che cosa, un infedele, dovremo abituarci a un mondo in cui questo potrà succedere ogni tanto. Dovremmo cercare di limitarlo e fronteggiarlo. Diciamo purtroppo che noi, è così. Diciamo che noi abbiamo, nelle due generazioni alle nostre spalle, accumulato una specie di consapevolezza che si dimostra molto relativa. Questa consapevolezza storica era quella che le grandi matrici dei conflitti erano quelle solo ideologiche create dal Novecento, quelle rosse e quelle nere, ed esportate nel mondo. In realtà, se andiamo a vedere nella storia del mondo, è una brevissima parentesi, perché nella storia del mondo prevalgono esattamente i conflitti come questi tipi, di questo tipo qua. Torniamo quindi a una costante, ovviamente aggiornata alle tecnologie, alla globalizzazione, alla proliferazione di nuclei diversi che per ragioni diverse, anche per ragioni nazionali, etniche diverse dell'universo islamico nel mondo si affiliano, come ricorda il professore, a matrice qaidiste prima e daeshiste oggi. Detto tutto questo, dobbiamo sapere quindi che ci vuole molto tempo, che le forme per venirne a capo sono diverse, che questo significa avere fanali accesi su la comunità qaidista, salafita, estremista di tutte le diverse matrici che c'è nel nostro paese, nei paesi europei e così via, tenere alta la guardia su questo, contemporaneamente sapere che possono colpirci, perché noi non possiamo rinchiuderci e rinunciare ai nostri principi di civiltà, e senza sbandare con la testa. Quando dico senza sbandare con la testa significa non credere che gli lanciamo la grande bomba sulla testa. Ecco. Poi giusto dice perde terreno, no professor Lombardi, e va bene, prima o poi militarmente cosa ci vuole tra virgolette a sconfiggere l'ISIS? Faccio un esempio concreto, per esempio la Francia tra l'Hebdo, Bataclan e questo, e il numero di persone coinvolte, abbiamo mille volte parlato di diverse matrici innestate su un paese con tensioni molto forte, la Francia è come se fosse entrata in un ciclo pluriennale paragonabile a quello del terrorismo interno italiano negli anni 70, e come noi ci abbiamo combattuto per quasi 20 anni, perché questa, per la Francia secondo me i segni, l'attecchire dentro di pluralità di fenomeni che producono queste vicende qua, devono portare a una consapevolezza della politica, che deve essere capace di essere unita su queste cose. Io ho molti dubbi che la politica francese, come vedremo l'anno prossimo, sia unita. Perché un altro grande tema è proprio questo, professor Lombardi: perché sempre la Francia? Perché continuamente la Francia? Perché ripetutamente la Francia così esposta? Ma ci sono ragioni immediate: la Francia è sul campo, la Francia sta combattendo, ci sono altre ragioni. La Francia è un'incubatrice di radicalismo che è, diciamo, una identità fornita a chi è già radicalizzato piuttosto che una forma più religiosa di adesione a Daesh, ma ci sono ragioni storiche che abbiamo spesso dimenticato. Chi veniva dalla Francia? Era il 2001, ricordiamoci che 48 ore prima delle Torri Gemelle è stato ammazzato Massoud, il leone del Panjshir, è lì che comincia tutto, è in Afghanistan, e da due tunisini radicalizzati a Molenbeek in Belgio con il supporto della linea jihadista francese, poi espulsi nel 2006. E dal 2001, quando accadde questo, agli attentati dell'altro giorno a Parigi e Bruxelles, c'è una galassia tutta legata all'interno della stessa rete tra Francia e Belgio che dura da 16 anni. Insomma, e quindi questo è, c'è chi mi dice ma come abituarsi, abituarsi non vuol dire rassegnarsi, no, vuol dire abituarsi vuol dire sapere che la questione c'è e sarà lunga, perché come dice il professor Lombardi, finché ci saranno delle persone che sono disposte anche a perdere la propria vita pur di ucciderti in maniera qualsiasi, prendendo un camion, entrando in un supermercato, entrando in un cinema, entrando in uno stadio, come si fa a fermare le persone che agiscono in base a anche a linee di pensiero folli? Non si possono contrastare. Purtroppo dobbiamo abituarci, nel senso di non rassegnarci, ma abituarci a capire che potrà succedere, come sta succedendo sempre più spesso. E poi significa anche un'altra cosa: non dimenticatevi che la storia è una questione lunga. Oggi è l'anniversario della caduta di Gerusalemme nella prima crociata, 1099. Vi dice qualcosa questa data? 1099, ecco. Oggi siamo al 2016. Ecco. Intanto noi ringraziamo il professor Marco Lombardi che è stato con noi, insegna la Cattolica, ovviamente i microfoni sono aperti, 800 24 00 24, continueremo sempre tutto su Nizza. C'è da dire, caro Oscar, ovviamente, che reagisce anche la Francia, si parla di annullamento della tappa del Tour de France di oggi, Marsiglia ha annunciato l'annullamento dei fuochi d'artificio di stasera. Vabbè, chiaramente queste sono reazioni abbastanza anche comprensibili per gli 84 morti, e chissà se ci fermiamo qui, ci sono 18 feriti gravissimi. Ancora. State con noi. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta, tanti salumi italiani, buoni, gustosi e già affettati. 24 mattino, attenti a noi due. A été frappé le jour de sa fête nationale, le 14 juillet, symbole de la liberté. Parce que les droits de l'homme sont niés par les fanatiques et que la France est forcément leur cible. caro Oscar, Hollande che dice la Francia è stata colpita proprio nel giorno, il giorno del 14 luglio, proprio perché la libertà non è cara ai fanatici. Lo so, non è cara ai fanatici, forse non siamo anche noi, però che non siamo più tanto troppo consapevoli di che cosa rappresenti, che generazioni fa ci sia che abbia versato un prezzo per lasciarla alle generazioni successive. Siamo così abituati che tutto sommato non ci sembra una cosa che granché ci contraddistingua o che valga la pena di essere difesa con la testa, con la ragionevolezza, ma che valga la pena di essere difesa. Prima, mentre eravamo in pubblicità, hai visto, raccontavi di questo franco tunisino, cioè il camionista che non era conosciuto dai servizi segreti. Quindi questo renderà per una volta ancora più complicato, no? Perché mentre in passato erano persone che hanno fatto esplodere enormi dibattiti in Francia, in Belgio, a cavallo, insomma, del cuore renano dell'Europa sul fatto che i servizi non riuscivano a mantenere aperti i fari su migliaia e migliaia di evidenti e segnalati, no? Casi di persone che stavano intorno all'universo jihadista, ma che ci stavano intorno ed erano noti alle forze dell'ordine. Qui abbiamo un franco tunisino che, se l'identità è confermata, è noto solo per fatti di violenza minore, liti, eccetera, la polizia ordinaria, quindi non riconducibile in nessun modo a un'attività da monitorare da parte delle forze di sicurezza, quindi ancora peggio. Che ha maggior ragione dice che per il futuro, insomma, sarà sempre più complicato, né? Non si può controllare tutti preventivamente. No, e poi, tra l'altro, cari ascoltatori, noi torniamo a ripeterci, a rileggerci in maniera incredula, soprattutto uno dei tra i tanti aspetti di questa vicenda che colpisce come novità e come evento che segna un'ulteriore escalation della modalità di colpire, cioè la quantità incredibilmente elevata di vittime bambini. Allora, interrogarsi sul fatto che appunto una persona che non ha, non stiamo parlando di uno che è andato come altri Molenbeek a imparare a combattere o a uccidere la gente a mani nude in Siria, in Iraq, eccetera. Stiamo parlando di una persona che improvvisamente matura dentro di sé la volontà e poi è capace di perpetuare per 2 chilometri il fatto di schiacciare con il camion dei bambini. E non solo, ogni tanto anche sparando. Qualcuno dice: ma come, guidava e sparava? Ma c'è un video, guardate, purtroppo ci sono già i video, c'è il video di un poliziotto che in moto lo affianca nel tentativo di fermarlo appena si avvicina all'abitacolo del camionista. Il camionista lo fredda sparandogli addosso e uccidendolo. Allora, ci chiamano gli ascoltatori. Barbara ci chiama da Vigevano, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Quello che volevo dire io è questo: proprio perché la libertà è stata guadagnata nel tempo con contrapposizioni e guerre, appunto, no? come è stata la presa della Bastiglia. Io mi chiedo questo, mi chiedo dov'è l'Islam moderato? La voce dell'Islam moderato che esprima contrapposizione e manifesti la propria voce appunto in contrasto con queste e con questi episodi di strage. Sa, il tema c'è, Barbara, devo dire, dalla moschea di Parigi c'è da dire che subito, dopo, nel giro di poche ore, hanno subito manifestato come dire cordoglio e sdegno per questo attacco. Però il tema che lei dice, Barbara, è un tema che c'è. Beh. Esatto, cioè è vero, le parole, diciamo, subito successive possono essere state queste, le interviste solitamente appunto agli imam, ai referenti di queste aggregazioni religiose, poi esprimono tuttavia sì una certa contrapposizione, ma non ci sono voci forti che ci facciano sentire, che ci facciano capire che c'è la volontà di agire anche da parte loro. Insomma, il tema, ecco, dell'Islam moderato. Grazie, Barbara. C'è Valerio, ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno a lei. Vorrei fare tre considerazioni cortissime, altrimenti vi rubo spazio. Prima considerazione: non ha più bisogno, secondo me, IS, di o Daesh, chiamiamola così, così si arrabbiano, non ha più bisogno di organizzare singolarmente attentati o neanche di teleguidare con troppa cura cellule che realmente sono da lei organizzate, perché grazie al fatto che si è fatto pochissimo contro la propaganda mediatica virale, che in realtà gli strumenti tecnologici permetterebbero di controllare molto meglio di quanto non si stia facendo, diciamo che Daesh è diventato una specie di grosso franchising, cioè può essere anche un collettore di rabbie ovviamente antioccidentali, ovviamente con una forte matrice antioccidentale anche in quanto occidente cristiano, non nascondiamoci dietro un dito, ma che sono sostanzialmente diciamo, delle schegge impazzite marginalmente, chiaro, individuali, che si mettono sotto quella bandiera senza che quella bandiera sia anche mi sembra un'analisi molto intelligente, cioè non è che siano dei soldati di, certo, Daesh, ma sono delle persone che si ispirano a Daesh perché poi magari si accolgono gli inviti lanciati, esatto, proprio nella grande massa di coloro che non fanno parte di reti organizzate, magari perché perché magari la vita a un certo punto gli dice contro e decidono di radicalizzarsi e dire allora come ultimo gesto estremo faccio qualcosa che mi fa guadagnare chissà nella loro mente il paradiso, forse, non lo so. Comunque con noi c'è il sottosegretario all'interno e lo ringraziamo, Domenico Manzione. Buongiorno sottosegretario, grazie. Buongiorno, di essere ben trovati, qui. Buongiorno a voi. Perché c'è un tavolo aperto ovviamente al Viminale, la situazione è delicata. Ovviamente ci può confermare che sono stati ulteriormente potenziati i controlli anche alle frontiere? Nizza in fondo non è molto distante da noi. Sì, in questi casi evidentemente vorrei dire che è quasi una procedura ordinaria, insomma, irrobustire tutti i tipi di controlli che già ci sono. Romina, se mi consente, mi lascio esordire con un attestato di solidarietà alla Francia, perché è veramente terribile quello che è successo. È difficile immaginare, come diceva lei, cosa passa per la mente di una persona che decide di fare una specie di strike dell'orrore, che genera una serie di sentimenti di difficile decifrazione, tra i quali anche la difficoltà e lo sgomento di affrontare un fenomeno che, come potete vedere, è polverizzato ed è probabilmente l'unica ideologia radicale in questo momento sul mercato, quindi anche i percorsi di radicalizzazione vanno sicuramente contrastati, ma c'è probabilmente qualcosa di più. Oggi il giornale scrive che negli ultimi 18 mesi sono stati espulsi 99 integralisti islamici sospetti, tra cui 9 imam. Che cosa ci può dire? È vero? Ce lo può confermare? Sì, per quanto riguarda gli imam, il dato è pacificamente divulgato dal Ministero dell'Interno e deriva da quell'attività di prevenzione di cui parlavamo prima e che in genere viene ulteriormente incrementata dopo ogni fenomeno terroristico che si manifesti, tanto più se di intensità di quello che si è verificato in Francia. Insomma, questo inquieta un po', Oscar, che ci siano questi numeri, però. I numeri sono questi, però il fenomeno è un fenomeno molto radicato, cioè, e poi oltretutto è un fenomeno molto radicato di cui credo che la percezione, rendiamo anche questo lamento agli ascoltatori, credere per esempio che più delle vittime dell'ondata che da anni ha assunto forme diverse rispetto a quella qaedista, dell'estremismo islamista, oggi Daesh, ISIS, eccetera, si concentri in Europa, nel mondo, è un errore di percezione classicamente. Se voi andate per esempio a vedere un'utilissima raccolta degli attentati e del numero complessivo di vittime globale dall'inizio del 2015 a oggi, lo trovate sul sito dell'Espresso, troverete che delle oltre 800 persone approssimativamente fuori dalla Siria e dall'Iraq, cioè dai teatri dove c'è lo scontro militare in atto su ISIS, uccise dalle reti che fanno capo a Daesh nel mondo dall'inizio del 2015, la stragrande maggioranza, il numero di attentati, purtroppo il numero, la media è 8, 9, 10 al mese, lo troverete nei paesi musulmani, lo troverete in Turchia, lo troverete in Nigeria, lo troverete rispetto ai grandi, però molto eclatanti come bilancio, attentati che avvengono nel nostro mondo. Cosa voglio dire? Voglio dire che la rete è globale e che lo scontro è globale. Lo scontro è globale, però, sottosegretario, come si agisce di fronte a queste schegge impazzite? Perché colpiscono spesso in Francia, ma non credo che l'Italia possa considerarsi per questo immune da rischi. No, ma guarda, anzi, proprio le forme di manifestazione di questa tipologia di attentati dimostra chiaramente come nessuno può considerarsi al sicuro, sostanzialmente. Quello che diceva Giannino è assolutamente sacrosanto, è il solito problema dell'errore tra quello che si verifica, della sfalsatura tra quello che realmente è e quello che viene percepito. Ovviamente noi percepiamo come l'Europa sotto assedio, ma la stragrande maggioranza di persone che muoiono per attentati non di questo genere, ma simili e a volte anche peggiori, sono musulmani, perché è prima di tutto uno scontro, diciamo così, interno, poi il riflesso nei confronti dell'Europa. È molto difficile evidentemente reagire, perché queste forme di terrorismo, come potete constatare, hanno assunto una forma di carattere pulviscolare, sono cellule minuscole, quindi è molto diverso rispetto al fenomeno che noi siamo ha delle similitudini, ma ha delle profonde diversità rispetto al fenomeno che noi abbiamo affrontato negli anni Ottanta. Anzi, sottosegretario, se confermate le prime risultanze che rimbalzano e che noi facciamo rimbalzare facendo il nostro mestiere sull'identità e il profilo noto solo per qualche precedente di lite dell'autore, in questo caso non stiamo parlando neanche di una cellula, stiamo parlando proprio di un'adesione spontanea maturata al di fuori, bisognerà accertarlo e verificarlo, anche del far parte di reti subliminali, quindi ancora più complicato per gli apparati di sicurezza. Non c'è dubbio, ma è per questo che dicevamo prima che sicuramente ci sono dei percorsi che consentono la radicalizzazione e sono in qualche modo individuabili. La rete è uno dei luoghi privilegiati. Mm-hmm. Le strutture chiuse, per esempio le strutture carcerarie, sono altri luoghi privilegiati. Però è anche vero che si manifestano dei casi in cui il percorso di radicalizzazione è talmente breve e talmente repentino che si fa fatica a pensare appunto a una È fuori da ogni controllo, è chiaro. Esattamente. Un'ultima cosa, sottosegretario, perché stiamo andando al giornale radio. Il giornale parla di una di un recentemente individuato ed espulso presunto terrorista islamico che era entrato indisturbato in Italia. Non so se sono informazioni riservate. Guardi Milan, su questo preferirei non dire niente, però le ripeto, i meccanismi sono tutti perfettamente funzionanti e sono anche efficienti. Ovviamente rimane il dato di fondo che di fronte a questo tipo di manifestazioni, ripeto, nessuno può sentirsi sicuro in questo momento. Questo sì. Va bene, sottosegretario, la ringraziamo e capisco anche la prudenza, insomma il giornale parla di questo terrorista che era entrato in Italia, che sarebbe stato espulso, individuato ed espulso. Insomma, capiamo giustamente anche la doveroso riservo del sottosegretario Manzione su una questione nel caso così delicata da eventualmente divulgare. Ci dobbiamo fermare, ci sono tutti gli aggiornamenti di GR24, ma non ci fermiamo, nel senso che fino alle 9:30. E poi la programmazione anche della radio poi continua. Dopo le 9:30 ci sarà uno speciale della radio e quindi non vi lasciamo al neanche un secondo. Al vostro servizio. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Inutile girarci attorno, il dato diffuso ieri dall'Istat sulle famiglie italiane in condizioni di povertà assoluta è un dato che deve preoccupare. Siamo arrivati al numero più alto dal 2005, ossia 1.582.000 famiglie, che equivalgono a 4.600.000 persone. Un aumento che si deve principalmente all'aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con quattro componenti, si è passati dal 6% a quasi il 10%, e soprattutto nelle coppie con due figli, e poi tra le famiglie di soli stranieri. C'è poi un dato che rappresenta anche una distorsione statistica: se si va a guardare il raffronto con gli anni precedenti, si scopre come nel 2014 vi era stato un calo anche significativo della percentuale di famiglie in povertà assoluta. Ma gli statistici lo hanno spiegato in maniera molto chiara: non era un calo reale, perché inizialmente molti dei neopoveri assoluti, che avevano perso il lavoro sia in età adulta che in età più giovane, sono rientrati nelle famiglie di origine, leggesi i genitori, e quindi hanno falsato inizialmente la statistica, perché il reddito della famiglia dei genitori si è distribuito anche su quello del neo povero. Ma nel 2015 l'effetto distorsivo è finito ed ecco perché torna a crescere il numero anche in percentuale di persone che vivono purtroppo in povertà assoluta. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, eccoci, siamo qui, torniamo in diretta, continuiamo a parlare di Nizza, poi continuiamo certo, a parlarne. Le cronache dell'ordinaria meschinità italiana con l'arresto del senatore le lasciamo in un angolo, almeno per oggi. Sì, sì, sì. C'è in tutto questo la richiesta dell'arresto del senatore Caridi. Però per gerarchia delle notizie, importante questo. Nell'angolo il mio cervello dice: certo, l'Italia nel frattempo non devia di un millimetro dalle sue schifezze pubbliche, chiusa parentesi. Esatto. Comunque Gianluca ci chiama da Brescia, c'è da dire dalle agenzie, Gianluca scusi un attimo, che ma l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, il killer, questo camionista, è stato neutralizzato da due poliziotti e una persona, un uomo. Non si sanno ancora i dettagli su come sia finita, insomma, questa vicenda. Gianluca allora da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io da stamattina che mi chiedo una cosa, com'è possibile che in un giorno di festa, in tarda serata, con tanta gente a piedi per strada, il camion sia potuto arrivare sino a lì? Cioè, io mi chiedo, ma non era opportuno prevedere dei posti di blocco, almeno dove c'è tanta gente? Visto il periodo che si sta vivendo, sicuramente guardi che la promenade su cui si è inoltrato, per metà era chiusa al traffico. Lei ha presente come la promenade, c'è la parte verso la spiaggia che è molto ampia, poi c'è la parte con le doppie corsie e c'è il viale alberato in mezzo, poi c'è un altro viale alberato con il controviale e dove ci sono gli alberghi, quindi è una cosa complicata. Ma la parte in cui si è inoltrato per oltre metà era proprio chiusa al traffico, perché era per consentire alla gente di guardare verso il mare i fuochi, e per quello c'era tutta quella gente. Però sa, un tir, se tu metti le barriere, le abbatte, e a quel punto si inoltra, quindi... le faccio osservare anche questo: la quantità di fori intorno alla cabina sono più di 30, per chi guarda con un po' di attenzione fa capire che comunque nel lungo percorso dell'attentatore, che poi è finito ucciso, ma ne ha uccisi oltre 80, durante il percorso sia polizia locale che polizia schierata ha fatto fuoco con tutto quello che aveva, e quindi anche lì la reazione c'è stata. Ovviamente, come fai a impedire a un tir di abbattere barriere fatte per isolare la gente che deve vedere i fuochi dal traffico? E a quel punto lui inizia a fare strike. Ok, è così. Comunque la ringraziamo, caro Gianluca. Tra l'altro le agenzie dicono che sono stati rafforzati i controlli al confine di Ventimiglia, come ci ha detto da subito, poco fa anche il sottosegretario Manzioni, una delle prime misure, anche perché si parla di presunti una cellula, come sempre si immagina, una rete in atto, collegamento, un po' come è avvenuto, scusate, ripeto, ci sono delle analogie anche a Dallas, sono passati pochi giorni, sembra chissà quanto tempo fa, in realtà chi ha fatto, ha ucciso il poliziotto era uno. E noi siamo andati avanti per 10 ore parlando di un comando che faceva tiro incrociato dai tetti. Adesso vediamo, ma anche qui sembra uno. A Oscar, però, all'inizio le fasi del genere sono fasi totalmente confuse, per quanto ci possa essere una preparazione, eccetera. Ma questo significa che noi non siamo pronti, in quel caso era Dallas, era le forze di polizia che lo dicevano, non siamo pronti a immaginare che un numero di vittime così elevato si possa anche originare da una persona. Questo è il punto. È chiaro, è chiaro. Con noi c'è Giampiero Batacchi, direttore della rivista italiana di difesa. Buongiorno, direttore, eccoci qua. Buongiorno, Pietro Batacchi. Sì. Mi permetto di correggere. Certo. A parlare ovviamente di quello che può essere la reazione, ovviamente, no? Ovviamente, tutti a parlare di tanto di questa modalità, abbiamo detto, nuova, davvero innovativa, di un camion. E ora a capire come mai siamo stati colpiti, ha sentito anche l'ascoltatore, in maniera così indifesa, con le nostre barriere difensive totalmente abbassate. E comunque è difficile trovarne per fermare un tir, bisogna mettere i cosi di cemento come quelli delle barriere fuori gli obiettivi militarmente sensibili, e lì c'era la gente invece per vedere i fuochi, quindi è un po' impensabile. Batacchi, che ci dice? Ma guardi, dobbiamo piuttosto pensare che di fronte a un certo tipo di minaccia, una minaccia come questa, siamo sostanzialmente indifesi. Io purtroppo lo scrivevamo qualche settimana fa, se noi blindiamo gli aeroporti, questi colpiranno le stazioni dei treni, se blindiamo le stazioni dei treni, questi colpiranno le piazze. Oggi hanno colpito strumento assolutamente rudimentale, asimmetrico, la promenade di Nizza. È un problema di risorse, non possiamo difendere tutto, non possiamo blindare tutto, questi sono soft target che questa organizzazione, che immagino sia lo Stato Islamico, è in grado di colpire come e quando vuole, in virtù di un patto molto semplice, che lo Stato Islamico è radicato in Europa. Il fatto principale, se noi guardiamo alle la frequenza e alla statistica degli attacchi che hanno colpito l'Europa dal 2013-2014, ricordiamoci gli attacchi agli obiettivi ebraici in Francia del 2014 e così via, dobbiamo parlare ormai di intifada d'Europa. Purtroppo non possiamo fare altrimenti, non possiamo proteggerci più di tanto perché, come dicevo prima, le risorse sono limitate. Io vengo da un salone della difesa che si è tenuto a Parigi a metà giugno, sono rimasto colpito per i bassi livelli di sicurezza che c'erano a questa mostra di sistemi d'arma, di sistemi militari, ma perché? Perché c'erano gli europei in contemporanea e quindi la coperta è quella che è. Però Battacchi, intifada d'Europa, insomma, è una frase anche molto forte, per la quale dovremmo... Tra l'altro evoca anche il tipo di strategia, perché esatto. Israele si è dato una strategia pluridecennale che non impedisce alle vittime di crearsi, ma le contiene molto, ma... è una strategia su quale un intero paese, che è una piccola comunità rispetto a Europa, condivide e ruota, cioè rispettando ferreamente quelle regole. Si continua a chiedere perché solo la Francia, guarda, lo chiede un altro ascoltatore via SMS, ne abbiamo già parlato anche prima, Battacchi, perché solo la Francia, cosa che non è vero, è successo anche in Belgio, ma succede anche in altri paesi, però la Francia viene ripetutamente colpita, allora perché soprattutto la Francia, si potrebbe dire? Perché evidentemente c'è un radicamento di estremisti islamico molto superiore agli altri paesi europei, mi pare evidente, in parte anche perché la Francia è più esposta magari degli altri, soprattutto in Africa, non dimentichiamocelo, però il punto forte è questo, che qui siamo di fronte a radicamento vasto, molto profondo e strutturato di comportamenti di tipo estremistico. Io ormai ho smesso di parlare di cellule da ormai un paio di anni, qui non si tratta appunto più di cellule, ma si tratta di comportamenti estremistici, di un sostrato estremistico dal quale poi emanano atti di terrorismo come questi, come il Bataclan e così via. Lo Stato Islamico peraltro non ha certe remore che in qualche misura Al-Qaeda aveva, che rimandavano anche una superiore, se mi permettete, intelligenza politica di Al-Qaeda rispetto a quella dello Stato Islamico. Lo Stato Islamico da questo punto di vista è un'organizzazione che non si fa troppe, come dire, le red qaediste avevano degli obiettivi che venivano selezionati dall'alto, intorno a cui si lavorava per anni, che venivano poi colpiti secondo una logica politica. Qui è colpite con qualsiasi mezzo. Attivatevi, affiliate, anche se non fate parte di nessuna rete, colpite. Anzi, nel messaggio di recente, un mese fa, di uno dei leader del califfato è: non venite qui, vorreste venire qui, invece state nei vostri paesi, ovviamente ai cosiddetti foreign fighters che vogliono andare lì, state nei vostri paesi e colpite in ogni modo. Anche se Battacchi, poi si dice che, secondo quello che è il profilo di questo camionista improvvisato assassino, non era una persona conosciuta dai servizi segreti, per caratteristiche di estremismo di qualunque tipo che hai visto nel suo passato. E questo, insomma, bisogna dire. Però Pietro Battacchi, stia con noi, perché noi vogliamo ringraziare Enrico Letta, l'ex presidente del Consiglio, che è a Parigi da un po' di tempo, dove dirige la scuola d'affari internazionali a Sciences Po, e che è con noi. Enrico Letta, presidente, buongiorno e grazie di essere qui in diretta su Radio 24. Grazie a voi. La Francia nuovamente colpita, si discuteva proprio di questo, nuovamente la Francia, poi è l'Occidente, la Francia è simbolo di tutti noi in questo momento, però ancora una volta la Francia è colpita così nel suo cuore più profondo, nel giorno della libertà. Lei che considerazioni fa al riguardo? Beh, è terribile la giornata, la libertà che viene colpita, la vita che viene colpita, è terribile pensare che appunto... non sono episodi quelli di Parigi e di Bruxelles, è molto di più di tutto questo, è probabilmente un intero sistema di convivenza al quale dobbiamo ripensare. Poi inizia, e qui mi viene di fare un, un ragionamento da italiano, Nizza è Italia. Se potevamo pensare prima che Parigi e Bruxelles erano lontane, ma insomma Nizza non è lontana, Nizza è Italia. E questa è così piccola e brutale metafora per dire che siamo tutti sotto attacco, no? Non si può pensare, come tante volte anche nei mesi scorsi si è fatto, è un problema francese, è un problema del loro modello di integrazione che non ha funzionato. Il problema è molto più complicato, molto più largo, è un problema che ci tocca tutti, perché appunto Nizza è Italia con tutto quello che questo comporta. Quindi il problema è anche nostro e credo che la riflessione debba essere profonda, larga, non può essere episodica. Non può essere neanche una risposta, come dire, istintiva che lei può immaginare, Presidente Letta, però che risposta deve dare l'Occidente? Una qualche risposta forse la deve dare. Ma credo che la prima questione è quella di mettere in fila Parigi, Bruxelles, Nizza e di capire che di fronte a questo tipo di attentatori che sono pronti a morire, la prevenzione è l'unica vera arma rispetto a una reazione o repressione che è sempre debole, come si è visto anche stanotte a Nizza con tutto quello che poi è accaduto. E per la prevenzione c'è bisogno probabilmente di un salto in avanti dei nostri sistemi, della nostra modello organizzativo. E a me ha colpito molto di vedere come rispetto a tutti questi eventi ci sia una fase di fiammata, diciamo, sicuritaria subito dopo, di riorganizzazione. La nostra stessa università a Parigi, dopo ognuno di quegli eventi, ha avuto 2-3 mesi successivi di ipercontrolli all'ingresso e poi già un mese fa, 2 mesi fa, come tutte le altre strutture simili, piano piano tutto questo è venuto meno perché passato un po' di tempo l'atteggiamento cambia e ci rendiamo conto invece che la questione non può essere una sovrapposizione di qualche ulteriore elemento di sicurezza. Credo che la riflessione sia proprio un ripensamento del nostro modo di organizzare la vita soprattutto in comune delle nostre società, delle nostre comunità, perché appunto quello che è accaduto ieri è sotto gli occhi di tutti e quel tipo di minaccia è un tipo di minaccia che purtroppo è ripetibile e rispetto alla quale bisogna riflettere. Mi verrebbe da dire che è una guerra civile quella in corso, è una guerra civile con tutti i crismi, persone che se le informazioni che si hanno sono quelle vere, persone che vivono, convivono con noi e che si rivoltano contro la società nella quale stanno vivendo con tutti gli effetti che questo comporta. Quindi la guerra civile va combattuta e va prevenuta con i mezzi che sono necessari. Fino adesso questo è stato fatto solo in parte. Letta, senta, uno degli aspetti della reazione, al di là di quello degli apparati di sicurezza, del coordinamento degli stati, le indagini della magistratura, tutte le cose che si possono anche fare meglio in Europa, però riguarda proprio il fatto che fino a questo momento, malgrado la durezza del bilancio di questi ultimi anni, l'opinione pubblica è evidente, si sente anche e si vede dalle reazioni che qui raccogliamo in flusso diretto con gli sms, gli ascoltatori e le telefonate, non è né consapevole che si tratta di un attacco mondiale. Ripeto, il più degli attacchi che ogni mese avvengono sono in paesi musulmani, sono in paesi come il Pakistan. Certo, fa a noi molto impressione quelli in Europa, ma sulla dimensione europea, questa è la mia domanda. Stanotte subito i commenti erano: andiamocene l'Europa, ma perché ci sono paesi più colpiti, noi no, approfittiamone, via, non c'entriamo niente. Allora, lei non crede, Letta, che anche la politica deve immaginare delle forme organizzative di reazione popolare capaci di far toccare con mano alla gente che bisogna essere uniti in Europa a questo? Perché credo che la percezione sia oramai molto più bassa, il rischio invece di fughe, auto spiegazioni per cui possiamo comprarci meglio la nostra sicurezza se ce ne andiamo da cose comuni e guardi molto forte, si tocca con mano prima ancora dei risultati elettorali e in questi momenti che si capisce che l'identità europea è debole. Ma cosa si può immaginare la politica per tentare di mettere nelle piazze insieme gli italiani, gli spagnoli, i francesi, i tedeschi secondo lei? È molto difficile parlare in questi momenti in una situazione simile, ma io penso che l'attacco all'Europa, al cuore dell'Europa, ai valori dell'Europa cambia la missione dello stare insieme. Diciamo la verità, fino a oggi, fino a ieri, fino a qualche tempo fa, l'economia ha dominato il nostro stare insieme come europei, con risultati altalenanti, alcuni risultati positivi, altri risultati negativi, disoccupazione alta in molti paesi, divergenze. Oggi dobbiamo renderci conto che la questione della sicurezza dei cittadini diventa una missione nuova, una missione che l'Europa non ha mai avuto e che non ha mai voluto darsi, che gli stati europei non hanno mai voluto dare all'Europa, perché non dimentichiamoci che sono anche gelosi difensori delle loro prerogative. Assolutamente, mentre abbiamo conferito la moneta in comune, sulla questione della sicurezza, sulla questione del controllo dei territori, del controllo delle frontiere, della polizia, della giustizia, il messaggio, oltre che gli strumenti, è un messaggio tutto nazionale e tutto di far di tutto per cooperare il minimo indispensabile. Ricordiamoci cosa è successo tra Francia e Belgio nei momenti precedenti, nei momenti diciamo tra il 13 novembre e il 22 marzo, tra i due attentati, quello di Parigi e di Bruxelles. La cooperazione è stata al minimo, sono state rialzate delle frontiere inutili, i terroristi sono passando le frontiere controllati, ma non c'era la collaborazione tra i servizi di intelligence, perché la reazione appunto nazionalista è quella di dire ognuno fa per conto suo e per carità non mettiamoci nelle mani dell'Europa perché è peggio. Allora la riflessione da fare qui è esattamente secondo me questa: i cittadini sulla sicurezza oggi misureranno la risposta delle istituzioni. Le istituzioni singole, nazionali, non sono in grado di dare una risposta sufficiente. Ecco perché la missione dell'Europa oggi deve essere una missione di misurarsi col tema della sicurezza, deve essere una missione innanzitutto ovviamente che parte dalle leadership europee, ma che poi mette in campo strumenti che siano strumenti veri, efficaci, non come quelli che abbiamo avuto fino adesso. Intendiamoci, è facile dirsi, è molto complicato fare tutto questo, perché le resistenze sono fortissime e anche perché lo spirito del tempo è un altro. Lo spirito del tempo è quello di dire torniamo alla sana sicurezza delle nostre frontiere, ma purtroppo non è così, non è che la sana sicurezza delle nostre frontiere ci protegge. Enrico Letta, un'ultima questione è quella della, glielo chiedo direttamente, della religione e nello specifico della religione islamica. Molti dicono c'entra, molti evocano guerre di civiltà, guerre di religione. Lo chiedo proprio a lei che sta nella Francia, nella patria dell'illuminismo, colpita proprio nel giorno in cui si ricordano tutti questi valori per cui abbiamo combattuto e fatto rivoluzioni. C'entra la religione islamica? Ma io credo che è evidente che ci sia bisogno di una attenzione rispetto agli elementi di radicalizzazione che da certe comunità emergono, superiore rispetto a quanto c'è stato fino adesso. Dopodiché l'incontro tra religioni, tra civiltà è un incontro che non può risolversi rispetto a un singolo episodio. Non dimentichiamoci, lo dicevate voi stessi prima, che è in atto una guerra mondiale. Se dovessimo fare una triste, che non si deve mai fare, ma insomma elenco di morti, l'elenco di morti di questo terrorismo è un elenco di morti per i quali quelli di religione islamica sono molto, molto maggiori, i morti di questo terrorismo radicale rispetto a tutti gli altri. Vuol dire che è uno scontro globale, planetario, in cui nei tanti epicentri nel mondo in cui questo scontro divampa sono persone di fede islamica, persone moderate, persone come tutti noi che sono le vittime, e questo va tenuto di conto dentro il ragionamento complessivo che stiamo facendo. Noi la ringraziamo ovviamente, Enrico Letta da Parigi, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo, ex premier ora insegna a Sciences Po a Parigi. Con noi Pietro Batacchi ancora, ovviamente non so che considerazioni possiamo fare per concludere questa fase, ma voglio ricordiamo Oscar che non si conclude la programmazione di Radio 24, che continua subito dopo di noi con tutti gli aggiornamenti. Ma io a Pietro Batacchi chiederei proprio una riflessione ancora su questo che abbiamo notato, cioè quando Letta ci diceva una specie di reazione a fisarmonica, nei primi due mesi si alzano tutti i livelli in maniera evidente, macro evidente di sicurezza, poi si riabbassano, tu stesso ci avevi detto, sono reduce da una fiera di sistemi d'arma, difesa e sicurezza, dove i livelli di sicurezza erano bassi. Sì, certo, perché erano tutto concentrato sugli europei, e per fortuna che non è successo nulla agli europei, bisogna immaginare a questo punto. Però così non se ne esce molto, Battacchi, perché non vedo aria di triplicare, quadruplicare le spese in difesa e sicurezza dei paesi europei. Almeno l'aria è proprio del tutto diversa, o no? Poi c'è un altro elemento da sottolineare, che comunque le democrazie, le liberal democrazie di massa, non si possono militarizzare, non siamo stati totalitari, non siamo paesi che possono, non siamo la Corea del Nord che può, come dire, spendere quel poco che ha in missili balistici e in repressione interna, non lo possiamo fare, abdicheremo alla nostra natura e questo non lo dobbiamo fare soprattutto. Io credo che bisogna partire da due considerazioni di fondo. La prima è quella che diceva il presidente Letta poc'anzi, su cui io sono completamente d'accordo, ovvero che siamo di fronte a una guerra civile dichiarata da una parte di una generazione, di religione islamica ma estremista, che ha dichiarato guerra all'Europa, cioè al paese, ai paesi in cui vive sostanzialmente. E dall'altra, l'altra considerazione che dobbiamo fare è il fattore tempo, come sosteneva il primo ministro francese poche settimane fa, qui siamo di fronte a una guerra che richiederà tempo. Diversi anni, forse 10 anni, forse 15, forse di più, perché l'ampiezza di questo fenomeno è testimoniata da questi atti. Insomma, Bataclan, Bruxelles, poi adesso Nizza, chissà cosa accadrà fra qualche mese. E ripeto, cari ascoltatori, andate sul sito dell'Espresso a vedere la lista mese per mese di dove sono gli attentati. Molti di voi ci dicono: ma che ce ne frega delle vittime islamiche? Ecco, invece bisogna capire che il fenomeno è un fenomeno complesso, mondiale. Ecco. Intanto ringraziamo Pietro Battacchi, direttore della rivista italiana di difesa, e concludiamo questa fase, questa parte di trasmissione, come abbiamo iniziato con la Marsigliese. Ma non si conclude la programmazione di Radio 24. Ringraziamo Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione, Paolo Corleone in regia. E soprattutto il nostro messaggio è: testa fredda, ma arrendersi mai. Continuiamo con Nizza tra poco.